Nudo e crudo di Giulia Fossà. Buongiorno, buongiorno da Giulia Fossà. Nudo e crudo, passioni, mode e debolezze che fanno notizie. Sono esattamente le 13:36 minuti e 50 secondi. Benvenuti e grazie per i vostri messaggi, le email, i post e i commenti sulla pagina di Facebook, insomma la vostra presenza attiva. È possibile un mondo più umano? In questi giorni si è ricordata la caduta del muro di Berlino come la nascita della nuova frontiera della storia. Ora, retorica a parte, quali condizioni psicologiche ed economiche, ma anche tecnologiche devono realizzarsi perché il mondo sia più umano e ci riusciremo? Quali altri muri dovremmo far cadere? È la domanda che poniamo ai nostri radioascoltatori, dunque vi ricordo come intervenire. Se volete potete inviare durante la diretta, solo durante la diretta, i vostri sms al 335-699-2949. Poi, se lo desiderate, naturalmente c'è un indirizzo di posta elettronica che è nudecrudo@rai.it e ricordo la frequentatissima pagina di Facebook di Nudo e Crudo. Bene, a Nudo e Crudo oggi Massimo Fagioli, scienziato, ricercatore da oltre 50 anni della psiche umana, da oggi è in libreria il suo ultimo volume, una raccolta di articoli edito dall'Asino d'Oro, Left 2006, questo è il titolo, e sarà presentato in apertura della manifestazione romana ai primi di dicembre, più libri, più liberi. Allora, buongiorno, bentornato a Nudo e Crudo, Massimo Fagioli. Buongiorno, molto bene. Allora, riparlarvi. Bello, sì, vale per tutti. Bene, allora, quando la sera sale i suoi 18 scalini, le capita di pensare se e quando questo mondo potenzialmente libero dalle ideologie può crescere in umanità? Penso di sì, credo proprio che quei scalini, adesso non ricordo esattamente che cosa ho scritto mesi fa, ma sì, perché vengo dalla seduta di psicoterapia. E la seduta di psicoterapia è una seduta particolare, non è quella classica dell'analisi individuale o di un piccolo gruppo, è fatta da molte tante persone. Però c'è una ricerca appunto di 50 anni, diciamo pure, che serve proprio per che siamo profondamente convinti che si possa migliorare la realtà umana, come avete detto. Naturalmente si può migliorare con la soddisfazione dei bisogni, con la tecnica, con il miglioramento delle condizioni, della eliminazione delle sofferenze del corpo, ma io ho scelto il miglioramento delle condizioni psicologiche. Bella la storia della caduta del muro, perché qui mi sono dovuto scontrare in questi 50 anni con un muro terribile, che è questa ignoranza totale o l'annullamento, io lo dico, della realtà di un terzo di vita, le nostre 7 ore di sonno, tutte entro le 24 ore, per cui anche in filosofia, in medicina e addirittura in psichiatria, quello non esiste. O se esiste, o se forse addirittura ancora peggiore, è assoluta razzia. L'ha appena detto Galimberti una settimana fa e lo sta ripetendo perché ripete quello che ha detto Freud. Quindi non c'è niente da fare. Ecco. E io non ho mai creduto che non ci fosse niente da fare. Allora, professor Fagioli, mentre sono davvero soddisfatta perché ho detto contributo attivo dei nostri ascoltatori, ecco là, primo messaggio arrivato al 335-699-2949, il signor Paolo che scrive, suggerisco due parole, socialismo meritocratico. Allora, dunque, libri, fotografie, cerimonie per ricordare il 1989, la caduta del muro, professor Fagioli, ha davvero sancito la fine del socialismo e la vittoria indiscussa del mercato e con quali conseguenze? Io toccherei subito la parola, caduta del socialismo? No. Fine, io ho detto fine, ma comunismo. Insomma, ecco, ok. È già un discorso, sulla parola socialismo ci sarebbe da pensare molto. Il comunismo avrebbe ormai una definizione storica abbastanza precisa tra Russia, Cina e magari Cuba e che so io. Mentre, ecco, qui c'è un problema che è un problema attuale di superare questo comunismo perché ci sono dei difetti teorici e pratici cioè la mancanza di libertà, per dire una sola cosa, però non del socialismo. Okay. Ecco, il socialismo è cominciato, il comunismo è venuto soltanto, diciamo pure, nell'848. Il socialismo c'era direttamente prima e poi forse, ampliando la parola, c'era ai tempi dei patrici plebei in Roma, okay. In cui c'era appunto la sinistra, che sarebbero i plebei, che aveva una continua lotta anche abbastanza feroce con i patrizi, che sarebbe la destra, non industriale quella volta, ma insomma dei ricchi, insomma, via. Te la seguo. Professor Fagioli, left, alle tre parole che hanno fatto la rivoluzione francese è stata aggiunta la T di trasformazione, è corretto? Trasformazione. È corretto? Cardine teorico, sì, certamente sì, perché il cardine teorico di questo che ho detto è che nessuno mai ha pensato a questa parola quando noi perdiamo coscienza, parola, comportamento e ci addormentiamo. C'è una trasformazione non del corpo, ovviamente, il corpo riduce soltanto la sua attività a metabolismo un po' più basso, ma della mente, perché lì c'è un pensiero, ecco la grande scoperta. Okay. C'è il pensiero che non è parola, non è linguaggio articolato, è una serie di immagini che pensano, ecco, il pensiero fatto da immagini. E quindi poi viene più o meno, rimane nella mente i sogni, no? Ecco. Rimangono nella mente al mattino e uno non ci capisce niente, è un linguaggio particolare. E distinguere fra bisogni ed esigenze, anche su questo e per questo è sparita la sinistra? Per il mio pensiero, ma sì, molto privato, che è un po' tutto da discutere, certo, che il comunismo è fallito perché non aveva un pensiero sulla realtà umana. La realtà umana era quella che c'era solo l'oppressione, c'era solo lo sfruttamento della forza lavoro, come se l'uomo fosse quello della Bibbia, dico io. È Adamo, ed è sempre, no, l'uomo si forma e si modifica, è meglio essere darwiniani. Cioè non è lo stesso di 7 milioni di anni fa. Lì il comunismo è partito non pensando affatto che la realtà umana andava trattata. Qui c'è proprio questo grande fenomeno che è assolutamente palese, che è la malattia mentale, la pazzia. E questo adesso, poi non si sa perché, qui sembra che nei tempi moderni succede tutti i giorni. No, infatti diventa lo scandalo, sì, mamma mia, di una società che in realtà poi dietro l'apparente mitologia della sicurezza nasconde ferite incurabili, no, professor Fagioli? Esatto. E quindi occuparsi della realtà umana. Questa pazzia è una malattia, non è natura umana, questa è la cosa di grande nefandezza secondo culturale che c'è, non c'è il peccato originale, è una malattia che può essere benissimo curata, è quello che noi abbiamo fatto in questi 35-50 anni, di affrontare questa non essere dell'essere umano, e si può fare per raggiungere, come avete detto, un'evoluzione, un miglioramento dell'umanità. Perché la distruttività sta nella malattia mentale. Professor Fagioli, lei sa che io farei tutta la puntata con lei, ma Non de Crudo non è fatto così, e invece la ringrazio per aver voluto aprire. Lei e voi, quelli che sono allora, ad ascoltare. Soprattutto, infatti, i nostri ascoltatori. Quindi buona giornata a Massimo Fagioli, ricordo Left 2006 per l'Asino d'Oro.